America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, da Chicago Mario Platero. Sono a Chicago, la città del vento, per seguire, diciamo così, in modo virtuale il vertice del G8 che si tiene a Camp David. E vi faccio un piccolo background: questo vertice doveva tenersi a Chicago, il centro stampa è stato organizzato a Chicago, la gran parte dei giornalisti sono a Chicago. A un certo punto il sindaco Rahm Emanuel ha detto no, qui non possiamo fare questo vertice perché c'è il rischio di dimostrazioni, pericolose dimostrazioni, e dunque ha chiesto, imposto all'amministrazione Obama di trasferirlo. E così a questo punto il vertice è a Camp David, molto isolato, un gruppo ristretto di giornalisti, di colleghi che sono stati sorteggiati per entrare nel pool, saranno a una distanza di circa 60 chilometri da Camp David, quindi dunque più vicini per poter magari ogni tanto vedere che succede, ma noi, la gran parte di noi lo segue qui da Chicago. E segue che cosa? Beh, una situazione davvero alquanto drammatica e pericolosa. La crisi europea è ormai al suo apice, l'America è preoccupata, Barack Obama è preoccupato perché si rende conto che da questa situazione europea può derivare la sua vittoria o la sua sconfitta alle elezioni americane. La questione fiscale resta centrale al dibattito. E dunque con me ai microfoni di America 24 Vito Tanzi, che è stato il responsabile dell'ufficio fiscale del Fondo Monetario Internazionale, che saluto. Buongiorno Vito. Buongiorno. Vito, parliamo della crisi. C'è un problema che è quello che riguarda la Grecia e il grido d'allarme un po' della Lagarde, che dice guai se la Grecia dovesse uscire dall'euro, ci sarebbero problemi gravissimi per tutti. Ecco, prima domanda, tu ti sei mai trovato in una situazione così difficile? Ma sai, le cose sembrano sempre più difficili al momento, ma mi ricordo che nel periodo intorno al 97, quando ci fu la crisi in Asia, c'era molta preoccupazione. Mi ricordo ancora nel 74-75, quando ci fu la crisi petrolifera, sembrava anche allora la fine del mondo. Quindi poi la crisi anche nell'America Latina negli anni 80, la crisi del debito del Messico, la crisi messicana dell'82. Ognuna di queste crisi sembrava di indicare la fine del mondo, quindi non, questa probabilmente è più seria delle altre, ma non la classificherei. Non avremo la fine del mondo, auguriamocelo, però forse avremo la fine dell'euro, o comunque dell'euro in Grecia. Come la vedi, sì o no? Qual è il tuo pronostico? Io mi sono convinto che in questo momento forse non c'è altra soluzione che spingere la Grecia fuori dall'euro. E la crisi invece dell'euro, la fine dell'euro in Europa? Ma io penso che ci sono ancora moltissimi interessi da parte degli altri paesi di rimanere nell'euro per varie ragioni, e credo, sono ancora convinto che l'Italia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo non stanno nella stessa condizione dei greci, anche perché la gente che li guida si rende più conto del problema. Però il rischio di un contagio c'è. Se dovesse esserci un attacco improvviso, immediato, nei confronti dell'Italia o della Spagna, beh, le cose forse potrebbero essere ancora peggiori, o sbaglio? Guarda, in Spagna e in Italia ancora la maturità media del debito pubblico è ancora abbastanza alta, 7-8 anni se ricordo bene, quindi non sono eccessivamente preoccupato, e può darsi anche che una volta che il problema della Grecia sparisce, la gente comincia ad acquistare più confidenza nella situazione e nelle soluzioni. Ecco Vito, gli Stati Uniti hanno il 10% di disavanzo sul PIL e il 100% del debito sul PIL, quindi sono cifre spaventevoli, sicuramente molto più spaventevoli di quelle europee, soprattutto per il disavanzo. Sei preoccupato da questa situazione? Ma sicuramente sono eccessivamente preoccupato. Con questa situazione in 3-4 anni gli Stati Uniti avranno lo stesso debito pubblico come in Italia. Però si dice che per la fine dell'anno, superate le elezioni e col nuovo presidente, sia che sia Obama sia che sia Romney, una soluzione la si troverà. Potrà esserci un impatto fiscale negativo sull'economia americana? Se l'impatto viene attraverso automaticamente dalle leggi che esistono adesso, sarà un impatto immediato è abbastanza grande, ma se si mettono d'accordo che cominciano a aumentare delle imposte, diminuire la spesa, così che in qualche le tendenze che abbiamo descritto cominciano ad invertirsi, allora questo potrebbe essere la soluzione buona. Ecco, in Italia sono state aumentate le imposte, ma si è tagliata poco la spesa. Questa è la critica che viene fatta alle manovre del governo Monti. Sei d'accordo sul fatto che a questo punto in Italia sarebbe fondamentale tagliare la spesa, soprattutto la spesa pubblica, la spesa della pubblica amministrazione? Ma io sono d'accordo che le tasse sono aumentate parecchio, la spesa non è caduta, ma allo stesso tempo do la giustificazione a Mario Monti, perché è molto più facile e molto più rapido aumentare le tasse che tagliare la spesa, ma sicuramente io sarei molto molto contento se da domani la spesa pubblica in Italia, invece di essere 50%, comincia già ad essere 49, 48, eccetera. Se tu fossi al G8 e potessi dare un consiglio ai leader, in modo che possano uscire con un comunicato che possa essere rassicurante sul piano pratico, concreto, e non soltanto psicologico per i mercati, cosa gli diresti di fare? Ma gli direi che l'uscita dalla crisi in cui ci troviamo non può essere indolore, quindi gli darei di cominciare a occuparsi veramente dei problemi di medio termine, principalmente della finanza pubblica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, è una brutta notizia, davvero brutta, perché Donna Summer, lo avrete probabilmente già preso, ci ha lasciati a soli 63 anni. La regina del disco, per molti di voi che mi ascoltano, probabilmente c'è la memoria di canzoni in discoteca, di gioventù. Questa cantante, 5 volte vincitrice ai Grammy Awards, aveva lottato per anni contro un tumore. Dunque a lei dedico la canzone del giorno, Donna Summer, I Feel Love. Chicago è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.